dietro uno striscione fuori dai cancelli. Poi questo posto è blindatissimo, quindi non vi si poteva accedere da nessuna parte. E sono stati avvicinati da poliziotti e carabinieri che presidiavano già da tempo, come sempre, la cancellata dell'istituto, e hanno cominciato a prenderli a manganellate. Tant'è che il risultato è che due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati portati via in ambulanza. Il tutto con Amato che scherzava e diceva: beh, il mio nome gira sempre. Ma chissà. Ma invece a Profumo gli chiediamo: ma le carote quando ce le manda? Perché per ora abbiamo visto sempre solo bastoni, cioè non... Studenti in lotta contro la Gelmini, maestri unici. Ehi, voi approvate la legge, noi approviamo i nuovi casini. Bombo clan. Un maestro unico in qualità e non in quantità. La politica occupa vite, noi occupiamo le facoltà. Sarà la ribellione, la sua forza massa è dotto. Nel Parlamento la legge, nelle strade 68. Tremonti fa più tagli che a nostra osteria. Ridurre gli sprechi nella scuola per aumentarli in polizia. Nell'arena ventennio pare ci sia nostalgia. Bambini in grembiulini, l'unico maestro in regia. Ha mutato nel cesso 50 anni di pedagogia. Per istruire un'altra scuola, un altro futuro, un'altra via. Test d'ingresso, questa è la loro integrazione. Scambia democrazia con la repressione. Allora, qui ci sono, insomma, le testimonianze contrastanti. Chi dice appunto non c'era nessun motivo, comunque non sarebbero mai arrivati, come si dice in questi casi, a contatto col ministro, eccetera. Chi dice che invece i collettivi autonomi, anzi che stavolta non so, i centri sociali, dove però non c'hanno il diploma, so. Ma forse è sinonimo collettivo autonomo e centro sociale. Una interpretazione che tentavano di forzare una porta laterale, insomma, tant'è che in questo paese in effetti non si può protestare, ovvero una piccola considerazione. Allora, un po' di gente di non si sa quale estrazione e quale provenienza, sabato sera ha beccato il vice segretario o qualcosa del genere del Partito Democratico Franceschini, e insomma, mentre mangiava, cosa molto incivile, gli ha detto d'andasse di traverso, insomma, gli ha manifestato tutto il suo disappunto, più o meno, insomma, sensato, perché poi alla fine le abbiamo fatte già le considerazioni, penso, su quella giornata, insomma, da questi microfoni. Comunque, lui anzi si è sentito talmente minacciato che è uscito fuori tre volte a parlare con questi, che evidentemente quindi non erano armati di mazze e forconi. Questa cosa è stata fatta passare per telegiornali, rubriche, pomeridiani, talk show, mattutini, serali e notturni come un'aggressione, cioè Franceschini è stato aggredito. E siccome poi, fra l'altro, e quindi questo ovviamente è pompato in questo senso, siccome fra l'altro l'episodio di oggi appunto non era soltanto una contestazione, poi vorrei vedere che uno non dovrebbe andare lì a fischiare se dissente, insomma, invece deve tutto passare. Fra l'altro le persone, Franceschini appunto passa per essere stato aggredito, e quindi ludibrio soprattutto da parte, su chi ha interrotto la cena, da parte ovviamente dei membri del Partito Democratico, dei loro giornali, eccetera, che evidentemente dimenticano che le stesse cose molto più pesanti l'hanno fatte a suo tempo nei confronti di Craxi. Ve le ricordate le monetine all'Ergife, quello del Palazzo dei Congressi, a Rafael, e questo albergo del centro di Roma dove lui andava a risiedere, a riunirsi, insomma, con i suoi compagni di partito quando stava a Roma, era presidente del consiglio, no, non era più presidente del consiglio, ma c'era tutta la storia ovviamente di Mani Pulite e così via. E però quella non era un'aggressione, quella era una civile contestazione, da toni anche, insomma, molto più feroci, molto evidentemente orchestrata, perché era orchestrata, perché erano tutti comunque di una certa appartenenza politica dell'epoca, mentre questa, che era tutto sommato una cosa, questa di Franceschini, abbastanza spontanea, e è stata fatta passare appunto come un'aggressione, eccetera. Dice: ma che c'entra col Profumo? C'entra perché non è la prima volta che è successo a feste dell'Unità, è successo in altre circostanze, dove appunto tu vai lì e dici che non sei d'accordo con questa cosa, e l'unica cosa che, senza motivo, senza che ci sia stato nessun timore, magari anche secondo il loro metro, per l'ordine pubblico, te manganellano proprio a tutto spiano e senza pietà. Questo è appunto, ci chiedevamo quando arrivava la carota, perché fino adesso è arrivato solo il bastone. E questo appunto è la domanda retorica che facciamo al ministro Profumo, che sta comunque ancora là. Fra l'altro non sappiamo chi lo sostituirà. E è come dire, questa canzone vuole essere apotropaica. Un dittatore non accetta discussioni, ministri delle riforme per gli esami vanno sud, per le prossime riforme noi vogliamo Robin Hood. Se non capisce la protesta per cui mi impegno, Catalla Gelmini un insegnante di sostegno, una scuola chiusa e una prigione aperta, bocciate. Per dirla con semplicità, insomma, la Gelmini no, ma lasciate proprio perdere, insomma. Questa è quella dei Balilla, non voglio voti in decimi, è come... O sì, che almeno sia chiaro quello che avete in mente su di noi. Comunque, siete veramente strani, stiamo parlando a chi ci governa. La lotta sarà dura ormai, come people say, rise. Noi non abbiamo paura mai, rise. La crisi non la paghiamo noi, rise. La lotta sarà dura ormai, rise. Come people say. Allora, prima di entrare nel merito degli argomenti di oggi, cioè oggi c'è stato un giallo che non sappiamo, almeno io personalmente non so come è finito, perché l'accesso alla lettura del cedolino dello stipendio, che è insomma ormai online da diverso tempo, era bloccato da qualche giorno, in genere intorno al 21. Così prima compare il cedolino ma non lo puoi scaricare, puoi solo leggere la cifra, dopodiché 2-3 giorni prima compare il cedolino, lo puoi scaricare e vedere le varie voci. Non si poteva accedere, c'è una cosa anche comica, perché tu entravi e ti diceva la sessione è finita, cioè, ma non l'ho manco cominciata. Poi hanno cominciato a dare varie voci da, insomma, da tutte le scuole dove noi lavoriamo, e la gente diceva, io ho visto su ho fatto la lista movimenti, sono andata a controllare sul conto che, ripetiamo, è obbligatorio adesso per tutti, tutti abbiamo dovuto aprire il conto corrente per avere lo stipendio, e ci siamo accorti che non c'era l'accredito. Quindi insomma, di questi tempi è serpeggiato un certo così, malessere, chiamiamolo. Questi sono i miracoli della dematerializzazione, no? Che ormai il cedolino non è più cartaceo, lo vediamo soltanto in internet, forse anche lo stipendio tra un po' diventerà virtuale. No, eccoci, cominciavo insomma a trattare, come dire, non è proprio il tema di oggi, è il tema della primavera 2013, lo è stata anche nella primavera 2012-2011, insomma sono diverse primavere che si respira questo clima. Ricominciamo a parlare dell'Invalsi, che è appunto alle porte. L'Invalsi, per ricominciare un po' dall'inizio, è questo test che viene proposto su scala nazionale ormai 5 volte nell'arco di una vita di uno studente o di una studentessa, seconda elementare, quinta elementare, terza media, seconda superiore, da quest'anno solo sperimentale a regime dal 2015 alla maturità, e che da poco tempo, dall'8 di marzo quando è stato approvato, è diventato, come dire, il fulcro del sistema nazionale di valutazione, che è questo decreto che in limine mortis il governo Monti ha varato, e che, come dire, vuol misurare le scuole e i docenti sulla base dei risultati che i ragazzi e le ragazze ottengono in questi test a crocette. Questi Invalsi, come dire, è criticabile e è anche pericoloso da molti molti punti di vista. In queste, nelle puntate che seguiranno, cercheremo di chiarire questi aspetti, anche andando a analizzare i vari ordini di scuola, quindi dalla primaria alla prossima puntata, quella dopo alle medie e quella dopo ancora alle superiori, perché appunto anche le date sono differenziate, e differenziati quindi gli scioperi a cui noi invitiamo tutte e tutti a partecipare in varie modalità. Gli scioperi ovviamente contro i quiz Invalsi sono il 7 alle elementari, alle materne, il 14 alle medie, il 16 alle superiori, che sono le date in cui vengono somministrate le prove. Ovviamente lo sciopero riguarda i lavoratori e lavoratrici della scuola, ma si può partecipare alla mobilitazione da studenti e studentesse, anche da genitori, non andando a scuola, non portando a scuola i propri figli e le proprie figlie, che è una cosa che assolutamente consigliamo. Partiamo un po' dall'inizio e volevo così riproporre brevemente una lettura che almeno per me è stata molto significativa nella comprensione di cosa significa l'Invalsi nella scuola. Si tratta di un articolo che potete leggere sul sito dei Cobas Scuola, che hanno una sezione di materiali sul test Invalsi. Questo articolo ha un paio d'anni, è del 2011, si intitola I devoti della misurazione ed è di Gianluca Gabrielli, un collega, un docente che si impegna nel CESP, insomma, che è un ente culturale legato ai COBAS. Parte appunto, il titolo mi sembra abbastanza emblematico, I devoti della misurazione, e cioè l'ossessione di misurare in dati quantitativi i risultati relativi all'apprendimento. Parte questo articolo con un po' di storia e ci ricorda che l'idea di valutare gli insegnanti e retribuirli in maniera differenziata sulla base della qualità del loro insegnamento, la qualità è un termine non nostro, nasce con Berlinguer. Colleghi e colleghe se lo ricorderanno, insomma, fu l'ipotesi del concorsaccio, si trattava del 2000, che voleva differenziare sulla base del merito, diceva Berlinguer, lo stipendio degli insegnanti e delle insegnanti. Non ce la fece Berlinguer, anzi perse pure la poltrona di ministro nel subbuglio che si creò in quell'occasione, però il progetto fu ripreso dalla Moratti, che introdusse il test Invalsi alle elementari e quindi l'idea di valutare il sistema scuola attraverso dei test a crocette da propinare a bambini e bambine. Non finì qui, perché e non solo, la Moratti introdusse un'altra cosa interessante, cioè che le prove fossero somministrate in maniera censuaria e non campionaria, cioè a tutti e a tutte, non a campione, e poi andremo a vedere perché voglio dire, ha un dispendio di forze, soldi, energie veramente notevole se uno vuol soltanto andare a vedere cosa funziona e cosa non funziona in un sistema scolastico. Comunque si passa poi a Fioroni, ministro PD, che mise l'Invalsi obbligatorio all'esame di terza media, come tuttora è una prova in un esame che è un esame di Stato, perché l'esame è l'esame della fine delle secondarie inferiori, dove all'esame di terza media il voto riportato all'Invalsi, lo dico perché magari i colleghi che insegnano alle superiori questa cosa possono non averla presente, contribuisce al computo del voto con cui il ragazzo esce dall'esame di terza media, quindi è a tutti gli effetti parte dell'esame. Si arriva poi alla Gelmini, la quale Gelmini ovviamente aveva già la strada spianata e quindi voleva arrivare attraverso la legge chiamata Aprea, poi ex Aprea, eccetera eccetera, a fare dell'Invalsi il modo per cui si tengono, si licenziano gli insegnanti, eccetera eccetera. Non siamo arrivati fino a questo punto, anche forse grazie un po' alle contestazioni, e poi siamo passati a Profumo, che approvando, questo lo dico io perché ovviamente l'articolo è uscito prima, il sistema nazionale di valutazione, ha reso un ruolo fortissimo all'Invalsi, perché appunto ne abbiamo parlato nelle puntate scorse. Questo Invalsi come sistema nasce dal documento di cui da questi microfoni abbiamo parlato martedì scorso, cioè quello a firma Checchi, Chino, Vittadini, un sistema di misurazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole, finalità e aspetti metodologici, dove si diceva martedì scorso si parla di predisporre un'anagrafe scolastica nazionale che abbini la performance, così parlano questi signori, degli studenti nei test a crocette con i dati di fonte amministrativa sulle caratteristiche demografiche ed economiche delle loro famiglie, tanto che questo paragrafo si intitola Il grande fratello bipartisan, e si arrivi così a reclutare e rimuovere gli insegnanti e le insegnanti sulla base dei risultati nei test dei loro studenti e delle loro studentesse. Comunque, dice, il progetto appunto è quello di calcolare la correlazione di dati raccolti nelle prove a crocette insieme a quelli dell'Agenzia delle Entrate e delle Anagrafe Comunali, che è un progetto se non altro inquietante, ecco, se non agghiacciante più che inquietante, perché come abbiamo detto la volta scorsa è evidentemente una schedatura su base censuaria di tutta la popolazione scolastica. grandissimo spreco di denaro, di risorse, eccetera eccetera, per questi Invalsi. Poi, quando, ci fa notare Gabriele, andiamo a vedere le analisi che i signori Invalsi traggono da questi test, leggiamo che, delle cose che l'acqua calda regala loro qualcosa, tipo che scoprono che gli studenti stranieri hanno più difficoltà di comprensione dell'italiano degli studenti italiani, oppure che esistono le differenze di classe, scoprono delle cose di questo genere, ecco. Dicevamo prima che il test, fin dalla Moratti, il test Invalsi è censuario e non a campione, cioè viene somministrato a tutti, a tutte, in tutte le scuole d'Italia. E a che serve questo? Gabrielli ci dice: da una parte si investe così tanto perché serve per trovare un meccanismo, non importa se antiscientifico e dispendioso, per differenziare meritocraticamente le retribuzioni dei docenti e i finanziamenti alle scuole. Dall'altra, esercitare una forzatura decisa sui curricoli e sulle pratiche consolidate di insegnamento. E questo mi sembra, come dire, un argomento da approfondire, che anche con quello vedremo dopo che succede in altri paesi del mondo si può approfondire benissimo. Cioè, che significa? Che l'Invalsi serve per far insegnare agli insegnanti quello che vuole il ministero, sostanzialmente, perché ovviamente tu devi addestrare i tuoi studenti e le tue studentesse a saper rispondere a quelle crocette, cioè teaching for test, dicono gli inglesi, insegnare a rispondere ai test e basta, non insegnare qualcosa, non imparare qualcosa, ma imparare a rispondere a quei test e obbligare l'insegnante a questo. E molto facilmente dici: ti leggo il tuo stipendio è legato a come mettano le crocette, e tu alla fine, insomma, puoi essere un'anima bella quanto ti pare, ma insomma devi pur campare. Ci fa notare Gabrielli che già molto avanti questa concezione in Italia, anche grazie alla propaganda che c'è stata, tanto che cita un articolo del 2011 uscito, sto cercando di capire il giornale perché sul Corriere della Sera, a febbraio del 2011, che si intitola "Studia qui, siamo i migliori, spot comparativi per le scuole", facendoci scoprire che ci sono scuole che già ora si promuovono dicendo: guardate che noi nell'Invalsi siamo i migliori della provincia, oppure siamo i migliori del condominio, insomma quello che è, o del reame, eccetera eccetera. È molto, appunto, e poi per il momento chiudo, insomma, con i test in italiano e matematica, scrive Gabrielli, si stanno già riorientando le didattiche di queste materie su un sapere più povero, nozionistico, legato alla forma dei test, alla velocità di lettura e di risoluzione come parametro decisivo da contrapporre alla riflessione. Il test muta velocemente da strumento a fine della didattica, quindi insomma, oltre a quello che dicevamo prima, bisogna anche tenere molto presenti che una volta che questi test sono a regime, cambierà in maniera sostanziale quello che si insegna a scuola, come si insegna, come si impara a scuola. La scuola oggi è didattica, non è altro che didattica, e non ha soldi, non può scegliere gli insegnanti, non può decidere l'organico, cioè non può fare le cose essenziali in una scuola autonoma, per cui si parla solo di didattica e la didattica la fanno i docenti, e allora gli altri organi di governo non servono a niente, non serve il consiglio d'istituto e il dirigente serve a poco. Chi dice queste parole è il presidente Oliva dell'associazione 3L di Genova, che è una delle personalità, delle grandi menti, possiamo dire anche gli ideologi, scusate, di questa cultura, così la chiamano, la cultura della valutazione, quindi della valorizzazione del merito, e che è stato scritto, queste parole sono state scritte nel 2005, e si lamentano e lamentano il fatto che nella scuola si insegni. La scuola dovrebbe, i programmi scolastici, adesso vi sfido a indovinare chi dice questo, è quasi inutile scriverli, occorre invece capire bene come devono essere fatte le prove al termine dei cicli e quindi come strutturare le prove. Saranno poi queste a retroagire su tutto l'insegnamento. Occorrerebbe anzi cancellare completamente le materie. Infatti oggi noi non abbiamo più i programmi scolastici, abbiamo delle indicazioni, quindi diciamo la strada è quella, e chiunque diventi ministro, qualsiasi sia il ministro, diciamo la strada è segnata. Questo è De Mauro. Sì, quando sorpresa, sì, l'uso della parola in questo suo intervento, così spiegava l'introduzione delle nuove prove di maturità. E, in questo articolo che sto leggendo, questo esame molto interessante che trovate sempre nello stesso materiale nel sito COBAS sull'Invalsi di cui si diceva, in realtà viene affrontato il tema su chi sono questi gruppi che stanno premendo e che ormai hanno sfondato la porta, stanno premendo per ribaltare, occupare anche le scuole con questa idea, come abbiamo detto, liberista, confindustriale, peraltro copiata pari pari dal sistema anglosassone. E quindi parla della Compagnia delle Opere, della Fondazione Gianni Agnelli, degli ambienti confindustriali che, caso strano, sono molto interessati alla scuola. In quali termini? Questi: basta didattica, misuriamo. E a cosa serve tutto questo? Beh, serve a arrivare a quel modello statunitense, anche inglese, che fortunatamente in questi ultimi anni sta vacillando sotto il colpo, sotto le osservazioni, sotto la rivolta di molti docenti, ma anche presidi di scuole che hanno sperimentato da 15 anni questa struttura. L'autovalutazione della scuola, quindi devo riempire delle griglie, la somministrazione di test standardizzati a tutti identici dall'età di 4 anni, dopodiché la classifica delle scuole, e le ultime saranno eliminate. Le ultime scuole dei vari stati, gli studenti più meno pronti, quelli meno che riescono a rispondere, che non si sono ben addestrati al test, devono essere allontanati. Prego. Su questo è un monito che noi facciamo sempre, ma che mi piace ripetere. Ricordiamoci che il documento citato prima, quello che Chichino Vittadini, comunque è esplicito e rappresenta e ha rappresentato la linea di tendenza seguita dall'Invalsi fino all'anno scorso, non credo che cambierà. La previsione per gli istituti che risultano, diciamo così, deficitari rispetto all'esito delle prove e rispetto evidentemente ai tentativi di sanare o di correggere le situazioni, è evidentemente l'accorpamento di istituti, la chiusura di istituti, il licenziamento di presidi, il licenziamento di insegnanti. In quel documento è prevista una prima fase di adattamento, perché si prevede che i test, i quiz, possano essere uno strumento operativo solo quando la comunità scolastica li avrà accolti. Dopo questa fase di adattamento, quello strumento scatterà a definire quelli che saranno i piani di riforme e di ristrutturazione di un certo tipo di sistema. E poi credo ne parleremo meglio, ma negli Stati Uniti appunto è stato instaurato questo sistema di test generalizzato con una legge del 2001, si diceva già nella scorsa puntata, da Bush. La legge si chiama No Child Left Behind Act, e questa legge appunto è a regime ormai da 12 anni. Negli Stati Uniti è già sotto forti critiche, cito un articolo di Italia Oggi di 3 anni fa, quindi insomma già nel 2010, USA in allarme, i prof barano i test, suggeriscono per migliorare il rendimento degli studenti, dove si dice che le scuole statunitensi vivono una sorta di febbre da test, però sempre più forte la tendenza al cheating, cioè la tendenza delle scuole e degli insegnanti a suggerire agli studenti le risposte corrette, perché altrimenti perdi il posto di lavoro se questi rispondono male. E esiste, poi dice, la tendenza delle scuole a finalizzare la didattica alla preparazione degli studenti. studenti perché rispondono correttamente ai test. Si tratta di una sorta di addestramento, scrive proprio Giovanni Bardi, che è l'autore di questo articolo, e poi cita una decina di studi di didattica che criticano fortemente questi test negli Stati Uniti. Si parla del fatto che in alcune scuole gli alunni più in difficoltà vengono fatti rimanere a casa, come si diceva l'altra volta, perché non rispondano in maniera sbagliata, cioè non rispondano per niente, e anche il fatto che vengano manipolati i dati, e infine addirittura il doping da test, cioè nelle mense e nei giorni prima dei test si danno più zuccheri, più insomma cibi che possano far funzionare il cervello. Ora, questi sono statunitensi, bisogna un po' capirli. E l'altro è un articolo invece, l'altro velocità, un articolo della Stampa del 2008 che parla dell'Inghilterra, che appunto, come si diceva l'altra volta, anche lì ci sono forti critiche. Perché che è successo in Inghilterra? Una mossa molto carina: hanno preso 1300 studenti tra i più brillanti di tutta la Gran Bretagna e li hanno fatto fare, abituati a prendere i voti più alti, e li hanno portati e li hanno fatto fare una prova che i loro coetanei facevano nel 65. La maggior parte di loro ha consegnato in bianco insomma è venuto fuori che nessuno di questi era in grado di farla sostanzialmente, questa prova. Quindi niente, dice, l'Inghilterra hanno cominciato a pensare che siano calati la qualità del livello dell'insegnamento e dell'apprendimento, e dice che la Royal Society ha cominciato a dire appunto che il problema è come si insegna, perché il problema è come si valuta, perché nel momento in cui tu valuti solo la soluzione, per esempio, di un test matematico e non il procedimento, ovviamente si perde la capacità di fare il procedimento. E infatti scrive in questo caso l'autore dell'articolo è Vittorio Sabadin, scrive: tutto ciò ha a che fare con il sistema di istruzione anglosassone basato sui test e sulla valutazione degli insegnanti in base ai risultati ottenuti dagli allievi. I docenti tendono a insegnare ai ragazzi lo stretto necessario a superare il questionario, perdendo di vista il quadro complessivo. I compiti con il passare degli anni sono diventati sempre più facili e il risultato è quello che si diceva prima, appunto. Ora, al di là del fatto che ci possono essere tanti motivi per cui non si risolve un compito del 1965, però è evidente che appunto questa correlazione tra tipo di prova finale e abbassamento della qualità dell'insegnamento, insomma, è molto logica, insomma, tanto che lo scrive anche un giornalista della Stampa, ci arriva, ecco. Io volevo fare un paio di considerazioni. Allora, intanto sono sicura che se si facesse la stessa prova in Italia i risultati sarebbero gli stessi, e del resto i docenti e le docenti si lamentano continuamente del fatto che, per esempio, quelli delle superiori arrivano i ragazzi e le ragazze delle medie che non sanno le tabelline, eccetera eccetera. Però a questo punto, anche se insomma questo è un discorso più complesso che del semplice Invalsi, ma sicuramente l'Invalsi questa situazione la peggiorerà invece di migliorarla, e quindi non si capisce perché poi non c'è una sollevazione più massiccia del corpo docente rispetto alla questione dell'Invalsi, come per esempio c'è stata entro certi limiti con la storia delle 24 ore. Poi l'uomo della strada, come si diceva una volta, si interroga, dice: ma sti professori che vanno cercando, cioè non si riesce a capire, ed è facile poi, no, trovarsi sotto accusa da questo punto di vista. Se ti stesse a cuore l'insegnamento, tu dovresti proprio fare le barricate sull'Invalsi. Devo dire che c'è una truppa, diciamo, bella determinata, che produce anche, come abbiamo visto, insomma, cose come quella che abbiamo letto anche l'altra settimana, che se non l'avete sentita scaricatevela dal sito della radio, perché insomma fa capire come la distruzione, cioè i nuovi programmi, la nuova strutturazione della scuola e l'Invalsi sono la distruzione proprio dell'autonomia mentale degli studenti. Fra l'altro c'è anche un altro equivoco che pesco, diciamo, da un articolo sulla rete che è uscito da un intervento a un convegno fatto a Ferrara da un coordinamento delle scuole di Ferrara, che qui c'è un'ambiguità di fondo, che è quella tra misurazione e valutazione. Sono due cose profondamente diverse, e Girolamo Di Michele, estensore di questo articolo, dice infatti una cosa che mi sembra, se non l'ho persa, molto giusta. Lui dice: Da alcuni anni i sistemi scolastici sono invasi da un'ansia, un'ossessione compulsiva, poche righe, un'ossessione compulsiva, una coazione inderogabile alla misurazione. Misurazione, non valutazione. Siamo tutti donne e uomini di scuola e l'esattezza delle parole è importante, dovrebbe esserlo, aggiungo io. Se prendo un piano dell'offerta formativa, uno qualunque, quello insomma che ogni scuola stila come vari progetti, come scopo proprio della scuola, eccetera, eccetera, uno qualunque, trovo scritto che valutare non significa solo misurare i livelli raggiunti nelle singole prove orali, scritte e pratiche, ma considerare l'acquisizione di un metodo di lavoro adeguato agli obiettivi prefissati, i progressi compiuti, il livello delle capacità possedute rapportate alle operazioni cognitive richieste, la qualità delle conoscenze e delle competenze acquisite. Alla valutazione finale concorrono anche l'interesse, l'impegno, la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro educativo. Dove non si ha la possibilità, aggiunge, o la volontà o l'interesse a considerare questi criteri, c'è una mera rilevazione, al più una misurazione, non una valutazione. Mi sembra molto, molto corretta, non so che ne pensate, questa analisi, perché appunto valutare è un'operazione sicuramente molto, molto più complessa, e comunque, a parte forse non tanto l'aridità quanto insomma c'è uno schematismo, perché poi così si parla nelle scuole purtroppo, però il concetto è chiaro, cioè l'individualità dello studente e della studentessa, la sua capacità anche di essere stimolato e di stimolare, perché no, perché spesso i docenti dovrebbero essere anche aperti alla stimolazione, no? Di chi sta in classe, insomma, queste sono cose assolutamente appiattite. Io ricordo che all'università c'erano tomi dove c'erano tutte le domande curati dal docente, tutte le domande, magari 400, quindi era impossibile impararsela a memoria con le relative risposte, e qualcuno praticamente se le imparava. Ma allora che senso ha? Non c'era nessun, diciamo, tipo di lavoro di coordinamento di quello che avevi imparato, di interesse personale, di metterci proprio la parte tua più vera. Beh, questo è proprio l'addestramento al superamento del test, e quindi mettere un test come prova finale, come prova anche intermedia, no, del tuo percorso, in realtà ti cambia completamente la didattica. Io ti devo addestrare a rispondere, non più a ragionare, a collegare, a motivare, e quindi cambia completamente. Se noi pensiamo che, ne abbiamo parlato diffusamente, chi andrà a insegnare nei prossimi anni, i nuovi docenti e le nuove docenti, hanno dovuto superare preliminarmente un test del tutto, dire, staccato dai contenuti, dalla didattica, per accedere al vero e proprio concorso. Beh, capiamo quale voragine si sta per aprire. Direi che facciamo una pausa musicale, perché sono 40 minuti fitti fitti che parliamo. Ci è confermato, eh? Bene? Arrivederci. Questi sono gli Assalti Frontali, e così volevo salutare con questa canzone i bambini e le bambine della Pissacane, perché uno di loro lo cantava sabato sera alla festa per Ciro Principessa e ci ha fatto molto divertire. Prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, il futuro dei bambini non fa rima con Cellini, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, meglio dire no a Cellini che indossare i grembiulini, c'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea, e prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, noi diciamo no a Cellini, day and night, noi diciamo no a Cellini, day and night. Ciao, mi chiamo Enea, vado a l'Iqbal Masik. E c'ho una magliettina verde mela molto chic. C'è scritto sopra io amo e difendo la mia scuola. Ma che maestro unico, Gelmini sei una sola. Lo sai che sono grande, sto in prima elementare. E ho già occupato la mia scuola per 2 settimane. Dici che sono giovane, ho molto da imparare. Ma siamo sotto attacco tutti e io mi do da fare. Non sono certo solo, sto insieme alla mia mamma. Sto con le mie maestre, abbiamo fatto una capanna. Con tutti i sacchi a pelo, i cuscini, i tappetini. Qui non ci prenderà nessuno, nemmeno i cellerini. I grandi stanno sempre, dico sempre alla riunione. Ma che ci avranno da parlare, o gioco un po' a pallone. Sono tutti angosciati, ogni ora, ogni secondo. Sembra che una gran disgrazia sia caduta sul mio mondo. C'ho un'idea, disse Nea, c'ho un'idea. E prese la parola in assemblea, c'ho un'idea. Il futuro dei bambini non fa rima con Gelmini, c'ho un'idea. Io ho 2 maestre, Mara e Simona. E se ci penso non so dirti quale sia più buona. E 20 amichetti, uniti che è un prodigio. Stiamo tutti insieme da mattina a pomeriggio. Questa è la scuola pubblica, la scuola di tutti. La scuola che vogliono sfasciare questi farabutti. Faccio fioccolate, lancio di palloncini. Ora ho capito che c'è dietro la Gelmini. E il 137, e il 133. Se taglieranno via Simona io saprò il perché. Quest'aula sarà vuota. Torniamo in voce perché abbiamo una telefonata. Pronto, ci senti? Sì, ciao. Ciao, se ci puoi raccontare che stai facendo in questo momento? Sì, no, in questo momento stiamo attaccando uno striscione per un'assemblea che teniamo del coordinamento Scuole 4, comitato Noi Invalsi, un'assemblea di informazione per organizzare la mobilitazione di docenti, studenti e genitori contro i test invalsi e il decreto sul servizio nazionale di valutazione. Partecipano, vabbè, vi dico alcune persone che parteciperanno: Marina Boscaino, docente e pubblicista dell'Associazione Scuola della Costituzione, Camilla Guarino dell'Unione degli Studenti, vabbè, parlerò io che sono un genitore del coordinamento scuole 4, Nicolas Giordano che è uno studente del Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico Nomentano, del collettivo del Fronte della Gioventù Comunista, e Francesco Cori del coordinamento Precari Scuola di Roma. E niente, se ci sono delle persone che vogliono venire sono chiaramente tutti quanti benvenuti, a parte quelli che sappiamo che non ne vogliamo chiaramente. E niente, l'assemblea si tiene al Liceo Scientifico Nomentano in via della Bufalotta 229, perché insomma riteniamo che sia veramente importante in questo momento creare veramente un boicottaggio fortissimo dei test invalsi in ogni segmento della scuola, quindi dalla scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e chiaramente le superiori. Ognuna nelle sue giornate, ricordiamo chiaramente c'è già uno sciopero indetto da Ricobas, dall'USB, mi sembra dall'USI, anche dall'Unicobas, non sono sicurissimo, comunque mi pare che tutte le sigle del sindacalismo di base siano, diciamo, convenute sulle date dello sciopero. E niente, noi siamo qui a organizzare questa assemblea appunto per fare una bella mobilitazione di tutte le scuole. Benissimo, noi ti ringraziamo e poi insomma ci risentiremo prossimamente, perché la mobilitazione degli invalsi è appena iniziata, insomma. Grazie. Appena iniziare, però cerchiamo di arrivarci ben organizzati a queste giornate. E di arrivarci in tanti e tante, che mi sembra sì, molto importante. Certo. Grazie per l'intervento. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Difendo il mio domani, cari bimbi e bimbe, qui termina il racconto. Ma ricordate sempre che l'orco paghi il conto. Questo è rap di Enea, oh Enea Super Rap. Questo è rap di Enea per le scuole elementari. Questo è rap di Enea, oh Enea Super Rap. Questo è rap di Enea, tagliamo i militari. Oh, per coinvolgere maggiormente i docenti, ma anche studentesse, gli studenti, le famiglie, no, a questa mobilitazione, forse è il caso di soffermarci, no, sul contenuto, su questi, l'idea del test, dei test standardizzati. Oh, ci aiuta sempre un piccolo resoconto di Ferdinando Alliata, che si chiama Cari signori dell'invalsi, Invalsi, Ciucciatevi il calzino, che racconta diciamo un episodio della serie di cartoni animati dei Simpson. Questo premetto che questo episodio è del 2009 e quindi raccoglie tutta la mobilitazione di oltre 500 associazioni negli Stati Uniti che si sono cominciati a ribellare a questa strutturazione della scuola, a questa istruzione dell'istruzione, e dal 2001, quando Bush, ma repubblicani e democratici negli Stati Uniti, hanno approvato questa legge del nessun ragazzo rimanga indietro, non uno di meno. In Italia l'abbiamo tradotta e copiata, diciamo in format abbiamo copiato, e da noi non uno di, si chiama non uno di meno. Questa legge prevedeva che fino al 2000, cioè che dal 2001 al 2014, quindi è ancora totalmente in atto, ogni Stato degli Stati Uniti dovesse stabilire gli standard sui quali tarare, creare dei test, e questi test dovessero essere somministrati a tutti gli studenti indistintamente, in tutti i gradi di istruzione, e elementare e superiore, quindi, e che dai risultati del test dipendeva, come abbiamo detto, no, l'esistenza stessa della scuola, il lavoro degli insegnanti e il posto di lavoro degli insegnanti. Le proteste hanno avuto un certo effetto finora, perché Obama, anche la Clinton, possiamo vederli i loro discorsi durante alcuni convegni, non hanno potuto abolire questa legge, ma diciamo hanno concesso delle deroghe a questi stati che devono raggiungere quell'asticella appena, come dire, il declassamento. E ci sono già 26 stati che hanno chiesto e ottenuto da Obama una deroga a questi standard stabiliti dalla legge. Tutto ciò è diventato un cartone animato. Quindi, se i docenti sono un po' pigri e non vogliono leggere i documenti pesanti che abbiamo detto, oppure se gli studenti sono distratti, perché c'è una modalità che è piuttosto efficace, quello di una puntata dei Simpson che è How the Test Was Won, che in italiano è stata tradotta l'anno dopo La conquista del test, che racconta esattamente la giornata in cui nell'istituto frequentato da Lisa, la ragazzina intelligente, brillante e acuta della famiglia Simpson, e Bart, invece il ragazzino un po' meno vivace intellettualmente, diciamo, che devono affrontare la prova, il test di questa legge del No Child Left Behind Act. E non so se la vogliamo raccontare la storia. Allora, c'è lo spoiler, se qualcuno non vuole vedere, non vuole sentire la trama e il racconto della storia. Io racconterei solo l'inizio, poi lasciamo il proseguo la prossima volta. Ok, allora l'inizio è questo: c'è il sovrintendente scolastico della scuola che spodesta il preside, che anche lui, diciamo, diventa una pedina in tutto questo, e così si rivolge all'inizio dell'anno scolastico ai piccoli studenti. I vostri voti in questo test determineranno quanti soldi riceverà questa schifosa baracca per i prossimi anni. Quindi passeremo ogni momento delle prossime 2 settimane a ficcare le domande e le risposte in queste vostre testoline vuote. E cercheremo di farvi sentire il proseguo dalle voci, insomma, dei doppiatori di Lisa e Bart nelle prossime, ma insomma può essere obiettivamente un buon strumento per discutere di Invalsi, perché è veramente ben fatta, la puntata è completa, insomma c'è tutto il teaching for test di cui si parlava prima, quindi tutta la piegatura nella programmazione a questo, eccetera eccetera. Ancora 2 minuti di musica e poi magari per questa volta possiamo chiudere questo tema e dirvi in breve qualche cos'altro. This trip worthwhile. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Un'iniziativa che c'è il 25 aprile e qui a Roma, gli studenti medi del sesto e del settimo municipio di Roma, insomma gli studenti medi che sono stati abbastanza effervescenti in questo anno scolastico, e insomma le loro effervescenze sono state anche insomma trattate a manganellate in modo piuttosto duro, ma insomma comunque hanno manifestato, hanno fatto un sacco di iniziative in quest'anno e quindi hanno organizzato per il 25 aprile una manifestazione in occasione del 25 aprile, ma ovviamente non è una commemorazione fine a se stessa, una manifestazione che però è decentrata e quindi è nelle zone del sesto settimo municipio, quindi è un corteo che partirà il 25 mattina intorno alle 10 da Piazza delle Camelie a Centocelle e si dirigerà poi a Casa Albertone, e dove insomma fra l'altro sono previste nel pomeriggio altre iniziative organizzate appunto e con le quali poi idealmente questo corteo insomma nelle quali idealmente questo corteo confluirà. Oltre agli studenti insomma partecipano anche insomma aggregazioni, organizzazioni un po' di tutta la zona, quindi questa radio fra l'altro ovviamente lo seguirà giovedì mattina e quindi insomma volevamo farvi partecipi, ovviamente è organizzato in sesto e settimo municipio, ma ovviamente chi vuole venire è certamente bene accetto e bene accetta. Sì, quindi appunto tutti e tutte giovedì mattina per il 25 aprile a Centocelle, dove appunto parte questo corteo costruito dal basso, come si suol dire, costruito e voluto fortissimamente appunto da studenti e studentesse di questa zona di Roma, ma studenti e studentesse di questa città, direi. Prima di chiudere vogliamo annunciarvi, appunto prima vi ho detto che continueremo a parlare di Invalsi, la settimana prossima parleremo di Invalsi alla primaria, ma volevamo annunciarvi anche un altro argomento di cui tratteremo nelle prossime puntate. Sì, è un argomento a cui dedicheremo un po' più di tempo perché merita approfondimenti visto che è stato molto dibattuto, ed è questo referendum che ci sarà a Bologna il 26 di maggio, un referendum comunale, quindi non ha neanche bisogno del quorum praticamente, quindi da un punto di vista giuridico ha una sua autonomia che verrà, una sua procedura insomma differente. E questo referendum, il cui comitato promotore si chiama Comitato Articolo 33, prevede di scegliere se continuare a finanziare con risorse pubbliche, private, statali, le cosiddette scuole paritarie, e qui parliamo soprattutto delle scuole dell'infanzia, oppure no. Ecco, su questo referendum anche a Bologna si sta discutendo da mesi, perché ci sono state spaccature poi tra anche sostenitori del PD, non ce ne meravigliamo, contrarie a tutto ciò, ma questo per il discorso che abbiamo spesso fatto anche sulla scuola, insomma, di come alcune politiche di destra o di sinistra insomma si equivalgono, anzi. E però ecco, questo sarà un tema che necessiterà di approfondimenti, avremo anche qualcuno che dei promotori del referendum che interverrà, insomma, con cui ci metteremo in contatto. Però intanto vi segnalo il sito, se qualcuno vuole farsi un'idea può andare su www.articolo33.org oppure cerca su Google Comitato 33 di Bologna, e se ci volete scrivere, perché appunto avremo modo poi di discuterne più approfonditamente e vedere anche che questo non riguarda, questo referendum è comunale ma non riguarda solo Bologna, nel senso che ha delle implicazioni che riguardano tutta Italia, e quindi ecco perché è il caso di parlarne anche da questi microfoni. Sì, fra l'altro, insomma, si tratta anche soltanto appunto per il comune di Bologna di tanti soldi, 1 milione di euro dati alle scuole private all'anno solo per le materne gestite dai privati, cioè dai preti, perché poi di questo si tratta. Insomma, lo sappiamo tutti e tutte in Italia che è così, ma insomma non è neanche solo un problema di laicità o non laicità, dietro poi c'è un problema di privato e di pubblico e di come si spendono i soldi destinati alla scuola. Ne tratteremo appunto ampiamente, il sito vi è già stato ricordato, vi segnaliamo anche che è uscito un articolo su Micromega, lo trovate su internet, che illustra in maniera abbastanza intelligente insomma questo quesito referendario. Si tratta di un referendum consultivo, perché non immagino che deliberativo non sia possibile anche a livello comunale. Detto, scusa? Ah, metteremo tutto sul nostro sito, che a questo punto ve lo ricordiamo, che è oradibuco.noblogs.org, mentre la nostra mail è oradibuco@ondarossa.info. Detto tutto questo, puntualissime alle 16:57 minuti, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo 30 aprile. Prima vi diamo appuntamento in piazza a Centocelle giovedì mattina e poi il 30 aprile alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E niente, mi sono impicciata con il mouse, ma prima o poi manderò la sigla. Eccola. Cara maestra.